i sacrifici del cristiano. L'ebraismo e il cristianesimo hanno la stessa matrice, eppure essi sono notevolmente diversi tra loro. La differenza più marcata consiste nel lato cultuale relativamente ai sacrifici. Kos è un sacrificio e un'offerta donativa nell'atto del culto con lo scopo di consacrare o dedicare a Dio qualcosa prima che il tutto sia lasciato all'uso profano o secolare. Un sacrificio comporta una rinuncia, un abbandono, una perdita. Quando Abramo sacrificò a Dio Isacco, era disposto a rinunciare al figlio e a tutte le benedizioni che in lui erano poste. Quando Anna, la moglie di Elcana, consacrò il primogenito all'Eterno, sapeva di rinunciare ai piaceri di allevare un bambino. Non esiste vero sacrificio senza la rinuncia di ciò che si offre. Per gli ebrei, ogni espressione religiosa, quale il pentimento, il perdono del peccato, la riconoscenza, si esprimeva nell'offerta di sacrifici. Proprio per questo vi erano vari tipi di sacrifici per il credente giudeo. 1. L'olocausto in cui la vittima era interamente bruciata sull'altare. 2. Il sacrificio per il peccato e il sacrificio di riparazione, i quali erano offerti in caso di peccato involontario. 3. Il sacrificio di pace o di comunione era seguito da un pasto. 4. Il sacrificio di lode, il quale era offerto in occasione di una solennità. 5. L'offerta, la quale consisteva generalmente in un prodotto vegetale, naturale o preparato. 6. La libazione, la quale consisteva nell'offerta di una bevanda. 7. I pani di presentazione che erano disponibili su di un tavolo nel luogo santo del Tempio. 8. Alcuni profumi che erano bruciati sull'altare dei profumi posto all'interno del Tempio in segno di gioia. Questo elenco di sacrifici è eloquente. Quando i giudei si avvicinavano a Dio, dovevano offrire sempre qualcosa. Con la venuta di Gesù è stata una rivoluzione nella forma del culto che consiste proprio nell'abolizione di questi riti. E ciò si accorda con il messaggio che Gesù rivelò alla donna samaritana. «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete». Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Il cristiano, quindi, è una persona liberata dalla forma dei sacrifici ebraici, e vive e si presenta al cospetto di Dio senza queste norme. Ma è proprio vero che il cristiano non deve più offrire sacrifici? Possibile che Dio abbia totalmente abolito l'offerta di sacrifici quando questi costituivano la base e un principio del culto ebraico? Con questi interrogativi mi sono letto la parola di Dio e ho notato, nella lettera agli ebrei, che nell'Antico Testamento il culto del credente era la rappresentazione e ombra delle cose celesti. Ebrei 8:4, perché la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Ebrei 10:1. Se dunque i sacrifici degli ebrei erano giusti ed accettevoli, ciò era perché questi rappresentavano delle verità spirituali valide per ogni tempo. Quando Gesù affermò che non era venuto ad abolire la legge, si riferiva a quella spirituale. In effetti, la legge di Dio ha tre aspetti: la legge cerimoniale, civile e spirituale. La legge civile era quella che riguardava i rapporti sociali, quali non maledire il sordo o non uccidere. La legge cerimoniale relativa ai sacrifici degli animali fu quella che Gesù abolì con la sua venuta. La legge spirituale è valida per sempre e si trova anche nel significato recondito di ogni disposizione di Dio. Se dunque i sacrifici degli ebrei avevano un significato spirituale valevole per sempre, ciò implica che i cristiani di oggi devono vivere le realtà spirituali alle quali si riferivano i sacrifici ebraici. Se i cristiani non offrono più sacrifici come gli ebrei, hanno l'obbligo di vivere quelle verità spirituali alle quali i sacrifici si riferivano. Ora, se noi non sappiamo quali sono i sacrifici che dobbiamo offrire, abbiamo fallito nella vita cristiana, perché qualsiasi religioso deve offrire alla divinità qualcosa, diversamente la divinità per lui è solo un concetto astratto. Se noi non offriamo o non abbiamo sacrifici da offrire a Dio, siamo cristiani solo a livello intellettuale. Leggendo la parola di Dio ho notato, con sorpresa, che il cristiano ha almeno 5 sacrifici da offrire. 1. Il sacrificio del proprio corpo. 2. Il sacrificio di uno spirito afflitto. 3. Il sacrificio del denaro. 4. Il sacrificio delle promesse. Prendiamo in esame questi sacrifici. 1. Il sacrificio del proprio corpo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi. Quando Dio diventa il Salvatore e Signore della vita di una persona, non lo è solo della sua anima, ma anche del suo corpo. Con il messaggio di Gesù, i cristiani hanno messo in evidenza i peccati spirituali, cioè quelli che si commettono solo con il pensiero, ma vi è tutta una serie di peccati che commettiamo con il nostro corpo: golosità, adulterio, omicidio, furto, maldicenza. Il credente che pensa di aver dato la sua anima a Dio, ma non consacra pure il suo corpo, non ha una vera fede. Ha una fede fasulla. E lo stesso discorso inerente alla fede e alle opere. Com'è vero che senza le opere la fede è morta. Così chi non consacra il proprio corpo a Dio non ha una fede operante. L'Apostolo Paolo nelle sue lettere invita continuamente i credenti a realizzare la santità nel corpo. Prendiamo come esempio un brano nella lettera ai Romani. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Romani. Non si può amare la santità di Dio perché è attraente. La nostra natura ribelle lo impedisce. Per amare la santità occorre essere motivati dall'amore di Dio. Il cristiano desidera la santità di Dio come risposta al suo amore, come afferma Paolo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Solo chi ha compreso quanto è stato amato saprà offrire come sacrificio vivente anche il proprio corpo. Non si rinuncia alla golosità, all'adulterio, alla maldicenza per amore di queste cose, perché esse sono sempre più forti di noi. Ma chi ama Dio sopra ogni cosa saprà rinunciare volontariamente a certi piaceri del corpo e li offrirà come sacrificio. Vi sono cristiani che non riescono a trattenersi dai peccati di gola, ma quando il loro movente deriverà da un amore riconoscente verso Dio, avranno una motivazione vittoriosa perché l'amore è forte come la morte. Nel suo bellissimo libro L'operaio cristiano alla ricerca del suo carattere, Watchman Nee mette in evidenza che nessuno può essere uno strumento nelle mani di Dio o un operaio nel suo campo, se non tratta duramente il suo corpo, se non sottomette le necessità del corpo all'opera di Dio. Le necessità del nostro corpo, mangiare, bere, dormire, procreare, svagarsi, sono legittime, ma tutto ciò può diventare illecito se non si antepone il regno di Dio. Dormire è lecito e normale, ma quando Gesù chiese ai discepoli di rimanere svegli non riuscirono a farlo. Il loro corpo non era abituato a essere sottomesso. Teniamo presente la testimonianza di Paolo. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. 1 Corinzi 9, 24-27. Molti cristiani hanno lo spirito pronto, ma la loro carne non è abituata al sacrificio. E così, al primo ostacolo, si ritrovano sconfitti. Nessuno è vittorioso nelle cose spirituali se non ha realizzato la vittoria nel proprio corpo. Il cristiano è composto non solo di spirito e di un'anima, ma anche di un corpo. Perciò, come ci difendiamo dagli attacchi spirituali, così dobbiamo difenderci dagli attacchi del corpo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. 2 Corinzi 6 e 14 7 1. Paolo ordina ai Corinzi di non inquinare lo spirito umano con l'ingiustizia, ma di separare il vero dal falso, da ciò che è giusto dall'ingiusto. Prima però egli si è interessato del corpo, ordinando ai Corinzi di purificarsi da ogni contaminazione di carne. Una simile espressione ci porta subito a pensare di astenersi dai peccati di gola, dalle passioni sessuali, dalle gozzoviglie. Ma Paolo voleva riferirsi a qualcosa di più. In greco, nell'espressione "non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso", usa un aggettivo che viene usato anche in Levitico 19:19 parlando di animali di specie diverse che non si devono accoppiare. Inoltre, se si confronta Deuteronomio 22:10, vi è la proibizione di aggiogare assieme il bue e l'asino. Dunque, la purezza alla quale Paolo si appellava non era tanto dalle intemperanze del corpo, ma di non associarsi con il matrimonio e nella vita secolare con coloro che non erano cristiani, e questo per non contaminare la carne. Anche se sono trascorsi 2000 anni, questo principio non è venuto meno. E molto strano che tanti figli di Dio si preoccupino di rimanere puri dai peccati di gola, dal fumo, e non si diano nessun pensiero quando allacciano relazioni amorose con chi non è figli di Dio. Quanti cristiani si sposano con dei non credenti? Ma, si chiede Paolo, quale armonia e comunione vi può essere tra un cristiano e chi non lo è? Vi è una incompatibilità morale disapprovata da Dio. Vi sono due tendenze opposte, la luce e le tenebre, che sono inconciliabili. La separazione del credente nei riguardi del male non è solo spirituale, ma anche fisica, soprattutto nelle relazioni più intime. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. 1 Tessalonicesi 4, 1 a 3. La licenziosità sessuale era un'accentuata caratteristica della vita nell'impero romano del primo secolo. E specialmente in Grecia, i cristiani tessalonicesi vivevano in una società la quale considerava la fornicazione non come una trasgressione alla legge di Dio, ma come un aspetto normale modo di vivere. Queste parole di Paolo dovevano quindi produrre un impatto non indifferente. Saper possedere il proprio corpo è un ordine che racchiude in sé tante cose. Paolo non entra in merito, non specifica nulla nell'ambito sessuale, ma sa che colui che è padrone dei propri istinti sessuali, di ciò che è terreno, umano, è anche capace di controllare ciò che è spirituale. Chi non sa trattare duramente il suo corpo e non lo riduce in schiavitù offrendolo come sacrificio vivente, ha una fede astratta che a nulla giova. 2. Il sacrificio di uno spirito afflitto. O Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Salmo 51, 15-17. Noi abbiamo per natura un atteggiamento sbagliato verso la sofferenza. Spesso le nostre preghiere sono indirizzate a Dio perché Egli intervenga a nostro favore per sollevarci da problemi e sofferenze. Eppure sta scritto che i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto quaxi. Quando siamo afflitti, non dobbiamo considerare quel periodo poco spirituale o meno proficuo per la vita cristiana. Piuttosto, facciamo salire alla nostra mente l'opinione che l'afflizione è gradita a Dio. La scrittura narra gli errori che fece Lot, il nipote di Abramo. Egli andò ad abitare con delle persone malvagie, cioè a Sodoma, da cui deriva il termine sodomiti. Eppure, di lui si testimonia che era un giusto perché era rattristato dalla condotta dissoluta degli uomini scellerati. Quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava con loro, si intormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. 2 Pietro 2, 7 a 8. Come cristiani possiamo a volte fare scelte sbagliate e portare le conseguenze dei nostri errori, ma tutto questo non deve scoraggiarci, perché abbiamo l'esempio di Lot. Nonostante tutto, la sua sofferenza era gradita a Dio. Vi sono situazioni della vita che noi non possiamo cambiare per nessun motivo, ma il nostro dolore è comunque prezioso agli occhi di Dio. Sono arrivato alla conclusione che tutti abbiamo delle sofferenze che dobbiamo offrire a Dio come un'offerta, come un sacrificio. Può essere un problema personale, come l'inclinazione all'omosessualità. Può essere una situazione familiare, quale quella di una donna che è picchiata dal marito, o un matrimonio sbagliato irreparabile. Qualunque sia la tua sofferenza, sappi che essa è gradita a Dio se gliela offri. Infatti, Pietro scrive nella sua prima lettera: è una grazia, non disgrazia, se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza davanti a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. 1 Pietro 2,19. Vi è poi un altro errore che noi commettiamo nei momenti di prova e di afflizione. Preghiamo che Dio sia con noi. Questa è una preghiera insensata, perché scaturisce o dall'incredulità o dall'ignoranza. Infatti Dio ha affermato esplicitamente: ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66, 2. Per questa promessa il salmista poteva confessare: i giusti gridano, e l'Eterno li ascolta e li libera da tutte le loro sventure. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Salmo 34, 17-18. Se noi crediamo che l'Eterno sia particolarmente vicino a noi quando soffriamo, ringrazieremo Dio della sua presenza. Lo spirito afflitto, quindi, deve essere offerto da noi credenti come un sacrificio che Dio accetta e che gli è gradito. Non solo. Giacomo invita a reagire in modo positivo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Giacomo 1:2. Dunque, quando ci troviamo nelle prove, non solo dobbiamo credere che Dio ci è vicino, ma dobbiamo rallegrarci. È questo atteggiamento, masochismo, dobbiamo fingere di essere felici quando non lo siamo? Niente di tutto questo. La gioia consiste nel sapere che una fede provata produce costanza. Paolo scrive ai Romani: noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Romani 5, 3 a 4. Noi cristiani dobbiamo esercitarci a guardare oltre il presente e a considerare le realtà spirituali più preziose delle realtà terrene. Senza questo atteggiamento il nostro cristianesimo è astratto. Impariamo a offrire a Dio la nostra sofferenza e smetteremo di commiserarci. Solo così potremo essere di vero aiuto per chi soffre. 3. Il sacrificio del denaro. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Filippesi 4:18. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace, Ebrei 13 e 16. Gesù ha parlato del denaro più di ogni altro argomento. Un sesto delle sue affermazioni riportate nei Vangeli riguardano questioni finanziarie. Gesù ha parlato più di denaro che di salvezza, di cielo. O regno di Dio, perché ha voluto evidenziare questo argomento? Perché egli sapeva che il nostro portafoglio è molto vicino al nostro cuore. Martin Lutero considerò che, nella maggioranza dei casi, l'ultima cosa che si converte di una persona è il portafoglio. In effetti, il denaro costituisce uno degli elementi più importanti per dimostrare la sincerità della nostra fede. Come è vero che non siamo dei cristiani se non consacriamo a Dio il nostro corpo? È pure vero che la nostra fede è messa seriamente in discussione se noi non siamo capaci di rinunciare a parte del nostro denaro. Il cristiano che non è capace di privarsi delle cose terrene per l'opera di Dio ha una fede astratta che non serve né a lui né ad altri. Una vera fede condiziona le cose terrene, compreso il denaro. Colui che non dona a Dio almeno la decima parte delle sue entrate è peggiore del credente dell'Antico Testamento, il quale donava a Dio la decima parte d'ogni cosa. Gesù ha additato il denaro come un padrone, e un padrone è colui che serviamo. Non ci è nulla di sbagliato nel possedere dei beni, ma ci è qualcosa di sbagliato se i beni possiedono noi. Non ci è nulla di sbagliato nell'essere ricchi, finché l'essere ricchi non diventa lo scopo del nostro essere. Se non siamo in grado di consacrare a Dio parte dei nostri beni, ciò significa che il denaro ci possiede. Per alcuni cristiani l'offerta del denaro è la prova più difficile. Per aiutarci a considerare il denaro come sacrificio, occorre ricordare che noi siamo solo degli amministratori e non dei possessori. Ho compreso questo aspetto in modo vivo quando lo Spirito mi ha parlato tramite il profeta Isaia. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Isaia 1:3. Ogni animale ha una propria greppia, ma essa appartiene al suo padrone. Se la parola di Dio ci ammonisce, la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, Ebrei 13:5, è perché ognuno di noi è inclinato a dare troppa importanza ai beni terreni. Non a caso Gesù nella parabola del seminatore ricorda tristemente che il seme caduto nelle spine rappresenta tutti coloro che odono la parola di Dio, come ora avviene, e poi se ne vanno e restano, soffocati dalle preoccupazioni, dagli impegni della vita, dalle ricchezze e piaceri della vita, l'avidità delle altre cose. Questo quadro non rappresenta delle persone che sono morbosamente attaccate al denaro, ma persone normali che danno precedenza alle cose terrene. Anzi, sono quelle persone che forse noi riteniamo degli esempi. A volte capita di leggere nei cimiteri dei necrologi, che riassumono la vita del defunto, un esempio di abnegazione alla famiglia e al lavoro. Non vi è nulla da recriminare su chi lavora sodo, perché questa è la volontà di Dio, ma quando la vita del cristiano è dedita al lavoro a discapito del regno di Dio, la faccenda si fa seria. Questi cristiani, Gesù li paragona ai pagani, cioè coloro che cercano nella loro vita prima ciò che è terreno, anziché il regno di Dio. È bene ricordare che per Gesù i pagani sono coloro che amano chi li ama, sono cordiali solo con chi è cordiale con loro, pregano solo per i loro amici, benedicono solo chi li benedice, cercano prima le cose terrene e poi quelle spirituali. Una simile condotta è tipica anche di tanti figli di Dio. Noi dimostriamo di credere veramente in Dio quando siamo in grado di sacrificare i nostri beni. La Chiesa di Corinto non difettava di alcun dono, tra di loro vi era abbondanza di fede di... Eppure quando si è trattato di dover fare delle offerte l'Apostolo, Paolo ha dovuto insistere per invitarli a compiere questo sacrificio davanti a Dio. Ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. 2 Corinzi 8, 7 a 9. Per Paolo, l'amore dei Corinzi non era veramente sincero o schietto, come altre versioni rendono, se non era accompagnato dalla rinuncia al denaro. E bastata questa riflessione per farmi comprendere quanto veramente amo Dio e il mio prossimo. Ricordiamoci, Dio e il mio prossimo devono essere amati ora, perché verrà il giorno quando sarà troppo tardi per farlo. Ora, non dopo. Dopo la mia morte non vedrò le tue lacrime. Non sentirò il profumo dei tuoi fiori. Non avvertirò il calore dei tuoi baci. Non mi giungeranno le tue preghiere. Non vedrò il pomposo funerale. Non apprezzerò il tuo denaro. Non vedrò i ceri accesi davanti alle mie foto. Non vedrò il tuo vestito a lutto. Non odorerò i fiori sulla mia tomba. Non sentirò i tuoi singhiozzi di rimpianto per non avermi amato, o di rimorso per avermi offeso, o fatto del male. Non sentirò le tue suppliche di perdono. Ora e solo ora amami. Ora posso sentire il calore del tuo amore, la forza delle tue preghiere, la gioia del tuo perdono, il conforto della tua amicizia, la solidarietà della tua comprensione, la schiettezza del tuo amore. Ora e solo ora amami. Ora l'unico tuo debito sia quello di amarmi. Ogni volta che leggo questa poesia ho davanti agli occhi il gesto di un mio zio acquisito che ha vissuto tutta la sua vita da avaro, non dando alla famiglia al funerale di sua moglie, prima di allontanarsi per sempre dal loculo dove mia zia era posta. Prese un fiore della corona che avevano pagato i suoi figli e disse: «Prendi». Se mia zia avesse visto ciò si sarebbe rivoltata nella tomba, perché il suo ultimo gesto era più offensivo dei precedenti. Ma se anche avesse voluto esprimere con quel gesto un atto di pentimento, era troppo tardi. Sta scritto: C è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e C è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Proverbi 11 e 24. Chi è attaccato più del dovuto alle sue cose e rimane sordo ai bisogni degli altri, chi non interviene quando dovrebbe e si lascia dominare dall'avarizia, che è una forma di idolatria. Efesini 5, 5. Costui è come se chiudesse la sua anima nella cassaforte del diavolo. Non potrà mai sperimentare le benedizioni che Dio, nella sua fedeltà e amore, vuole dargli. Sarà sempre più povero dentro, e avrà anche molti affanni emotivi. La libertà di cui beneficia il credente passa attraverso la libertà di donare senza ripensamenti né crucci, ma con cuore allegro e fiducioso. 2 Corinzi 9, 7. Ciò non significa che dobbiamo disfarci di ogni nostro bene, ma di manifestare attraverso la loro saggia gestione e attraverso una giusta prodigalità quali sono le priorità spirituali della nostra vita. Questo atteggiamento altruistico avrà un valore terapeutico che risolverà molti problemi legati all'autocommiserazione, perché impareremo a non concentrarci più su noi stessi e sui nostri bisogni, ma guarderemo anche agli altri. Temo che il denaro e le cose terrene abbiano fatto più vittime tra i cristiani di qualsiasi altra cosa. Solo chi considera i beni terreni come un'offerta a Dio può evitare di vivere sotto il regno di Mammona. Ogni ricchezza che non è da Dio mi fa più povero. 4. Il sacrificio di lode. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13 e 15. L'Apostolo Paolo definisce la lode il riconoscimento verbale della grandezza di Dio. Confessare la maestà e l'opera di Dio dovrebbe essere l'atteggiamento più spontaneo per un cristiano, eppure esso è visto come un sacrificio. Possibile che la lode possa diventare o essere un sacrificio? Se la lode è un sacrificio, come può rimanere ancora una lode dal momento che essa dovrebbe essere una reazione spontanea all'amore di Dio? Bisogna vedere che cosa si intende per sacrificio. Se il sacrificio è l'atto di consacrare a Dio qualcosa, allora la lode ha la sua ragion d'essere. Il cristiano dedica o consacra del tempo per riconoscere l'amore e la grandezza di Dio. Non solo, Paolo afferma che dobbiamo continuamente offrire a Dio un sacrificio di lode. Ciò significa che quando la nostra vita non è una lode quale risposta all'amore di Dio, noi non viviamo il cristianesimo al giusto livello. Mi rendo conto che vi sono giornate in cui è difficile avere uno spirito di lode, ma come esistono gli atti di amore spontaneo e quelli che scaturiscono dal dovere, così esiste la lode spontanea, e quella guidata da un atto di volontà. Non è quindi ipocrisia lodare Dio anche quando nel nostro cuore non vi è uno spirito di lode. Colui che vive il cristianesimo condizionato dai propri sentimenti non potrà essere usato da Dio in molte situazioni. Quando Paolo e Sila furono frustati e messi in prigione, non credo che fossero nella condizione migliore per essere felici, ma guidati dallo Spirito Santo cominciarono a cantare degli inni. Quando Paolo afferma che il sacrificio di lode è il frutto di labbra che confessano il suo nome, voleva intendere che la lode non è sempre il frutto di un cuore ardente o di un sentimento forte, ma anche di un atto di volontà. Con le nostre labbra possiamo confessare a Dio che lo amiamo, possiamo riconoscere che Egli è grande, potente, misericordioso, anche quando siamo tristi o abbattuti e i nostri sentimenti sono a terra. Dio afferma: chi mi offre come sacrificio e ringraziamento mi glorifica. Salmo 50, 23. Quante volte affermiamo nelle nostre preghiere: Signore, io ti voglio glorificare. Ma che vogliamo intendere quando affermiamo di voler glorificare Dio? Vogliamo forse fare cose grandi per Lui, come Mosè? Vogliamo forse essere dei potenti testimoni come Elia? Certo, tutto questo glorifica Dio. Ma secondo la Scrittura, si glorifica Dio anche quando si è riconoscenti verso di Lui, quando lo si ringrazia nel momento in cui il nostro cuore non lo farebbe. Quando Giobbe perse tutti i suoi beni e gli morirono i 10 figli, non aveva certamente un cuore pieno di gioia o emotivamente proteso verso Dio, ma adorò l'Eterno ugualmente perché Egli ha il diritto di dare e di togliere. Com'è facile e naturale adorare Dio quando Egli opera a nostro favore, è altresì difficile lodare Dio ed essere riconoscenti quando scopriamo di avere un tumore o davanti alla perdita di un nostro caro. Ma questo è proprio il sacrificio di cui si compiace Dio. Il sacrificio della lode è forse il sacrificio più difficile da offrire. Possiamo offrire a Dio il nostro corpo e non avere un cuore riconoscenti. Possiamo offrire a Dio un cuore afflitto e mantenere dei risentimenti. Possiamo offrire a Dio il nostro denaro ed essere insoddisfatti del nostro stato sociale. Ma non possiamo offrire a Dio un sacrificio di lode e poi mantenere nel nostro cuore sentimenti negativi. In un mondo pieno di concupiscenza, di insoddisfazioni, di lamentele, il sacrificio di lode è la più evidente dimostrazione di una vita toccata dalla grazia di Dio. Mentre il diavolo ha inoculato, dall'Eden in poi, nella razza umana il sentimento di insoddisfazione per ciò che non ha, la grazia di Dio ci apre gli occhi per considerare tutti i benefici che ogni giorno riceviamo. L'ingratitudine dice: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Giovanni 11,37. La lode dice: Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Salmo 103,10. La lode è il sacrificio dei sacrifici. 5. Il sacrificio delle promesse. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Eterno. Salmo 50,14. La legge ebraica teneva in considerazione i voti o le promesse che i giudei facevano come espressione d'amore e di riconoscenza. Abbiamo ricordato Anna, la moglie di Elcana, la quale fece il voto di consacrare un figlio a Dio se glielo avesse concesso. Nel Nuovo Testamento leggiamo di Paolo che fece un voto e per questo si fece radere il capo. Il cristiano, condizionato probabilmente dalla cultura evangelica che insegna una vita basata sulla grazia e non sulla legge, generalmente non fa voti. Vi è però un voto, una promessa, un giuramento che tutti i cristiani hanno fatto. Anzi, se una persona non ha fatto questa promessa, non è un cristiano. Mi riferisco alla promessa che ogni persona ha fatto nel cospetto di Dio al momento della sua conversione. Quando una persona diventa figlia di Dio è perché ha confessato i suoi peccati a Gesù Cristo, e lo ha accettato come Salvatore promettendo che lui sarebbe stato da quel momento in poi il suo Signore. Ciò significa che ogni cristiano ha dichiarato davanti a Dio che non avrebbe più vissuto la sua vita, ma che ogni giorno avrebbe rinunciato alla propria volontà per fare quella di Gesù Cristo suo Signore. E, veramente questa è la nostra esperienza? Ecco dunque il sacrificio di cui si compiace il Signore, una vita dedicata e consacrata prima di tutto a Lui, o, come afferma Gesù, cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia che i nostri interessi personali. Se il sacrificio è un'offerta donativa, allora una vita vissuta dando la precedenza a Dio è un'esistenza che glorifica Dio. Una vita consacrata a Dio non è per nulla meritorio, perché non si è fatto altro che mantenere le promesse che si sono fatte. Anzi, mentre le promesse fatte a Dio nel momento della conversione possono essere motivate anche da un certo interesse, per paura dell'inferno e del bisogno del perdono, la promessa giornaliera di una vita consacrata alla santità non può essere che il risultato di una risposta all'amore di Dio. Chi mantiene e rinnova le promesse fatte alla conversione glorifica Dio e compie quel sacrificio gradito al suo Salvatore. In tutta la parola di Dio è evidente che le promesse fatte da una persona sono considerate da Dio seriamente. Innanzitutto vi è il continuo invito a essere coerenti, fedeli. Ecco due episodi significativi. Sedechia, l'ultimo re del regno di Giuda, aveva giurato nel nome di Dio davanti a Nabucodonosor che non si sarebbe ribellato al suo dominio. Non mantenne la promessa e i suoi figli furono scannati. In sua presenza, a lui furono cavati gli occhi e Gerusalemme incendiata. 2 Cronache 36, 13, Ge 52. Il libro di Geremia riporta invece la fedeltà a un giuramento che fecero alcuni giudei, i Recabiti, al loro padre in relazione al non bere il vino e abitare sotto le tende. Geremia 35. Dio tramite il profeta Geremia li prende come modello per il popolo perché furono fedeli in cose di poco conto. Inoltre, per questa loro fedeltà, il Dio promise che la loro discendenza non sarebbe venuta meno. Dopo questi episodi possiamo ritenere di poco conto il nostro giuramento di consacrare la nostra vita a Dio? Gesù disse: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E, se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Luca 16, 10-12. Queste domande devono farci riflettere. Se non siamo fedeli alle promesse fatte a Dio, molto probabilmente non siamo fedeli neppure in cose di minor conto. A volte, come credenti, ci sorgono dei dubbi se saremo fedeli sino alla fine. Anche se, come è scritto, i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio. Tutto è davanti a loro. Ecclesiaste 9, 1. Cioè, tutto è possibile, è anche vero che possiamo ora comprendere se saremo fedeli sino alla fine. Se non siamo fedeli nelle piccole promesse, se non siamo coerenti in cose di poco valore, dobbiamo dubitare fortemente della nostra fedeltà alle promesse più importanti. Faccio un esempio che ci sfugge per la sua quotidianità, la puntualità. Ormai siamo abituati a vedere delle persone che non sono puntuali agli appuntamenti o all'inizio delle riunioni. E un modo di vivere, noi diciamo. E ci facciamo un sorrisino. Ma l'abitudine di non essere puntuali risiede in qualche cosa di molto più profondo, nel carattere. Se consideriamo attentamente, le persone che non sono puntuali spesso mancano in tante altre cose in relazione alla parola data. Se per loro non è necessario essere fedeli ad un orario, non trovano altresì necessario essere fedeli in altre cose più importanti. Gesù non ha fatto differenze. Chi non è fedele nelle minime cose, non è fedele neppure nelle grandi. Sì, il carattere di una persona non si riconosce nei momenti eclatanti, perché proprio in quei momenti non siamo noi stessi, ma dai piccoli episodi che tracciano la sua esistenza. mantenere la promessa di una telefonata, di una visita, di un aiuto, come è scritto, e meglio non fare voti che farli e poi non adempierli. Ecclesiaste 5:5. La saggezza di un figlio di Dio consiste anche nel sapere dire di no, nel non far promesse, sia agli uomini che a Dio. Ma, come leggiamo nella Scrittura, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. Ecclesiaste 5:4. Come possiamo mantenere una promessa a Dio se non manteniamo quelle fatte agli uomini? Se ci mettiamo tutto il nostro impegno per mantenere gli impegni verso il prossimo, avremo il premio di essere stimolati a mantenere le promesse fatte a Dio. E non credo che sia una cosa più bella. Dopo queste riflessioni risulta evidente come la vita cristiana non sia una passeggiata nel giardino dell'Eden. Se è vero che il cristiano non ha più obblighi di sacrificare animali, rimane valido il principio che egli ha da offrire, consacrare e dedicare a Dio come sacrificio almeno queste cinque cose: il proprio corpo, la sua affizione, il suo denaro, la sua lode e mantenere le sue promesse. Ogni cristiano è un sacerdote santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 1 Pietro 2:4. Nell'Antico Testamento offrire un sacrificio era un onore riservato a pochi, mentre oggi tutti i cristiani possono offrire a Dio dei sacrifici. Chi non vive con questo spirito, molto probabilmente è un figlio di Dio che ha una fede immatura e perde delle opportunità e benedizioni oggi, ma soprattutto ricompense nel futuro. Chi non ha offerto nulla riceverà altrettanto. Facciamo nostro il bellissimo proposito di Davide. Non offrirò all'Eterno, il mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. UNAMARASORPRESA. Nella cattedrale di Lübeck, il porto più importante del Mar Baltico, si può leggere l'impressionante iscrizione che segue. Voi mi chiamate Salvatore, e non vi lasciate salvare. Voi mi chiamate Luce, e non credete in me. Voi mi chiamate il Cammino, e non mi seguite. Voi mi chiamate la Vita, e non mi desiderate. Voi mi chiamate Maestro, e non mi ubbidite. Voi mi chiamate Glorioso, e non mi amate. Voi mi chiamate la Sapienza, e non mi rivolgete a me. Voi mi chiamate Signore, e non mi servite. Voi mi chiamate l'Onnipotente, e non avete fiducia in me. Se un giorno io non vi conoscerò, non esse antico testamento è stupiti. Questa epigrafe è l'opera di qualcuno che ha nettamente sentito come vi sia una lotta di fede fra la teoria e l'osservanza del cristianesimo. E qui che sta la grande differenza fra coloro che ascoltano la parola e quelli che la mettono in pratica. Rendiamo sicura la nostra vocazione mediante i sacrifici. Settembre 1999, Ellero.